Roberto, hai avuto modo di mandare un messaggio a, a Flipper? Sì, l'ho mandato da ieri, mi ha detto che non interessa, non ho insistito, gli ho detto se mi vuole il numero, gli ho detto perché cosa era, mi ha chiesto, e io gli ho detto per un altro, gli ho detto no, non mi interessa, l'hanno lasciato perdere. Bene, Meda, ok, va bene uguale, non c'è problema. Io non ho fatto niente di più o di meno di quanto potevo fare. Ma infatti va bene così. Però ti compro la Venom, ti cazzo di Giamma. Cosa hai detto, Luca? Gianni, però ti compro la Venom. Mi sa che dovrò fare così, dai. Mi sa, quando io smonto la mia, se la mia ha problemi, mi compro la Venom. Perché cosa c'ha la tua, Luca? Cosa c'ha? Vorrebbe smontata, pulita, roba, non è semplice. C'è stazionaria la tua? Sì, 1.5, 1.7. È il cavo buono, cazzo, c'ho 213, quello doppia calza. Vabbè, magari qualche punto può essere bizzicato, cosa ne sai? Ma proprio l'antenna. Su, io ce l'ho sempre, l'ho messa nel 2005, con l'antenna, a gennaio 2005, grazie a Dio, facendo le corna, sempre intera, e le stazionarie ce l'ho bassissima, è proprio zero. Oh, per te, Robè. Oh, ho fatto un bel lavoro, tutta l'antenna sigillata, vabbè, ne avevo fatto quel lavoro di modifica, ti ricordi quando c'era la rotta, lì è stata rimessa tutta la spirale, quel l'avvolgimento del cavo rifatto nuovo, con le stesse misure, eccetera, eccetera, dove c'è il PL gli avevo messo Amphenol, anziché quelli cagati che mettono loro, e tutto saldato bene, è fatto un bel lavoro, dai. Poi il fissaggio non era a cosa, avevo vitine piccoline, ne ho messo viti passate, ho fatto un bel lavoro, dai. Meglio così, Robè, di lusso. Eccomi! Mi a lui, mi, e me a tu. Ebbene, allora, come va, sta bene? Sì, lo capo che lo zicchende. Ma dimmi tu. Ah, cavolo. In terra era. C'è anche Gianni il profeta, guardi a lei. Ehi, ciao Antonio, ben entrato. E buonasera, avanti. Buonasera già. 960 la matta di Nivaria. Boh, cazzo, non ci compresio. Gli faccio il solletico con l'antenna, a tu. Ti vedo. A tu? Dimmi. Ma che distanza siete in linea d'aria uno dall'altro? Ah, cosa vè? Cosa vi sarà? Sono proprio poca. Guarda, in linea d'aria ci saranno 200 metri, forse qualcosina di più. Ah, io pensavo eravate più vicini. Allora vi vicino coso, Fabio Master, quando era a me, cacchio, sarà stato a 150 metri. Devo allontanare qualche minuto, dai, ci sentiamo tra poco. Scusatemi un attimo. Praticamente io dal tetto ti vedo a te, già lo credo già. Dai, saranno 200 metri, buccia e tutto, dai. Linea d'aria no, linea d'aria è molto più vicino. Ma ci vorrebbe qualche strumentino di quelli... Vabbè, comunque, più o meno, dai, buccia e tutto, mi vanno i 200, dai, poi... Se qualcosina in meno va bene lo stesso. Allora, cioè, tu pensa che io esco da qua e già ti vedo, cioè ando in oggi, cioè esco in via Diego Pinna, come ti si chiama, e i chibi dove vediamo da bacchino già sono gente una tua, ti puoi immaginare cosa è cante vicino. Ehi, sì. Vicini, dai, come dice Striscia la Notizia. Avanti, Lu. Ciao, Antu. Ripeto un attimo che stavo controllando un telefono, un attimo, Fatto quasi finito. Riprende, Antu. Capa, fai. C'è più burro più vicino di Natalino, sei. A voglia. Natalino certamente che è più lontano. Cazzo. È anche un po' più coperto, dai. Arriva a 9.50 Natalino. Ma siamo là. Siamo tutti vicinissimi, poi alla fine, più o meno i soliti sono, insomma, quelli del centro storico sono tutti molto vicini, dai. Ci sono io, tu, nel centro storico Natalino, siamo in tre, prima c'era anche Pomponio, ma adesso manca tanti anni. Adesso è andato in alto, ma poco fa stava provando il microfono. Eia. Lui è sempre fascendine, cro cro. Ciucucciù. Sempre ciucucciù. Oia. adesso tra poco mi preparo una bella caprese, perché ho voglia di mangiare qualcosa, e quindi tra un po' mi preparo un bel panosso di quelli aghi di brici. Ah, origano, fumati, cosa, quanti gigiamma l'altro? Mozzarella, un bel di cose così. Eia, sì, una foglia di lattuca, le bumanche, la mozzarella, origano, e poi siccome mi piace un bel ci metto anche qualche cappero. Io mi ho fatto la cosa, mi ho fatto, come si chiama? Ho fatto la pizza. Ma di quelle, come ti chiama? Quelle preconfezionate o te le hai fatto tu, cioè hai fatto tu impasto e tutte cose? No, l'impasto è quello è che si torna alla teglia. Ah, ho capito. E beh, buona uscita. Buona, sì. Ah, è Rospin la vende. Ah, ma cos'è la margherita semplice oppure c'era dell'altro? No, l'ho fatta, gli ho messo un poco di gacio grattato, gorgonzola, come si dice, e mozzarella e gorgonzola. Ui, leggerina allora, no? Come formaggio ho utilizzato il Gran Capitano. Ehi, aspetta un minuto, vado a controllarmi il panino, dai. Ehi, vada. Hola, hola, ti raggiungerò. Non si è sentito oggi? Ma chi, Gianni? No, Eugenio, da Polo Torres, si è sentito se oggi? Poco fa è entrato. E allora c'avevo il volume basso, non l'ho inteso. Poco fa è entrato. No, stavo facendo roba al computer, ho abbassato, c'era la radio accesa, però col volume basso, dai, no, non ho sentito. C'è K. Ah, sai, quando abitavo la Latte Dolce, mi arrivava un bel forte tu. Ah, vabbè, ce l'ho... È tutto libero la parte di giù, figurati, è tutta a vista, quindi se non ci sono ostacoli arrivo dritto dritto. Già lo so, ci abbiamo avuto una posizione in doggia con l'apparecchiatura che ho io qua. Gloria, sì, tutta a vista, la Sinana, Fiume Santo, e che c'ho Monte Oro, se no avrei visto anche la Nurra, però c'è Monte Oro davanti e quindi non fa. Io devo sollevare parecchio qua. C'è questo capo di palazzo che mi copre la punta, adesso la punta ci sta un po' più fuori, però c'è questo palazzo che mi copre un bel po', il palazzo che c'ho a fianco. Già l'ho vista la tua antenna l'altra mattina, stavo scendendo dal corso che sono andato a ritirare dei farmaci in farmacia e sono passato lì in zona Mona, che ho buttato l'occhio, l'ho vista. Cappa, e non è minoretta, no? No, cos'è, 5 metri è... Quella è una mezz'onda, quindi è 5,50, giusto? Quello è un 5 metri, cappa, più mano della boomerang è... E me lo doppio. Cappa, ma sono contento, la verità, la verità, sono molto contento. Va bene, anche a futidini. Ah, adesso mi ha fatto umidità, un po' di stazionaria e ciò. Non mi fa di nulla, basta andare a poca potenza e va bene. Va bene. Cazzo, il difetto di quella antenna è sempre stata l'umidità, è molto sensibile. Non mi fa di niente. Ciao, fa. L'ho accordata, non c'è nessun tipo di problema, nessuna preoccupazione, dai. Non è neanche una preoccupazione, no. A 1,5 no, non li fa niente, non è che 1,2, 1,3, poi quando parlo ci sarà 1,5 perché la potenza ce l'ha l'apparecchio, ma non mi va di nulla. Ho capito, aspetta che vado a controllarmi il panino, tanto dai. Cambio. Ehi, avanti. Antonio, buonasera Antonio. Che tu fai, voi? Ehi, a cazzo, sono io. Cazzo, cappa. Vabbè, coppa. Gianluca. E allora, Luigi, un cappo, sono socio, cazzo. Vabbè, basta tattare qualche schiccia. Cazzo, mi ha fatto un ballo di anni 80, troppo un dogo, allora, sì, troppo un dogo. Tanta brutta male indotti, e allora ragazzi, che si dice? trucchino. Allora, un attimo devo fare una prova. Cazzo qua giù antenne in fusa, che? Farà scaldare, metti su eliminare la trucchino qua. Io non lascio spento, si sa mai che i cupi è già tutti in occhi. Ma te lo ricordi l'altro giorno, Santiago Otto? Scappa, no, quello rimane letargo quando è così. Lascio stare spento, uso questa. Già va bene, già va bene. Scappa, quanto arrivo con questa? 5. 5-6, vero? Quanto sono quasi 5. Lì, basta. Basta per farmi... Mi intendi con l'altro, mi intendi? Con l'Intec, che ne ha un poco di più, già andava. Quello, guarda, attacco quello là, è una bestia. Ce l'ho dato quello, a voglia. Quello, ti devo affitto, sono stanco. Scappa, non è la vita. E due che faccio mangiare la pizza, non ho fatto la pizza, quella che ci stende e poi ci metti la roba e la buona in forno. Non è una forna a legna? No, corrente. No, ho capito. Torna a vendieva. Oh, sono troppo stanco. Ciao, si è rotto le balle, diceva. Ma oggi Fortantino non c'è. Ho capito. Oggi Fortantino non c'è. È guascio, un guasto come quello non è qua, non si può non illuminare, mamma mia. Ma se non si mi deve andare, intanto a me mi faccia parlare. Cioè, è proprio gente stupida. Io gente così stupida non ne ho mai vista in vita mia, va. Ma mai hanno mai uno si buona a fare che cose, cioè. Io il basso. Questo è un po' il basso la macchina. Guarda, non aggiù mai molto la bontà a nessuno, perché sono una persona educatissima. Cioè. Non ho mai fatto cose del genere. Sì, sfide tipo aiuto a rubarsi, un pen di voce con un lignare. La verità non mi vergogno a dirlo, l'ho fatto così. Ma dico marridì. Ma mettere la portante per andare a girare i coglioni, no? A me non mi piace, a me mi piace fare le sfide, a me che arrivi più forte. C'è quando ero vicino, l'ho fatta una persona perché mi la odiavo, ma perché era Link, ma gli altri non ho mai fatto niente, ma tantissimi anni fa, quando ero proprio ragazzino, l'ho fatta una persona solo, ma lo pigliavo Maruguru però, non proprio portante, ma dicevo delle cose per farlo incazzare, perché lo odiavo. Ma di altre cose non ho fatto mai niente. Vabbè, ci sentiamo più tardi, stiamo andando a cenare. Ciao a tutti, a più tardi. Ciao, ci sentiamo. Che andiamo? Tu cosa devo dare i quattro, ci dato, Antonio? Cosa facciamo grazzara? Cosa ho? Ho detto che sono sveglio dalle 4. E dove ti vai? È stata come un po' di romacca stamattina. Ah, e beh, Uduna. Una magnata, forse pure due. Cazzo, e beh, hai fatto il buga. E beh, certo, la prossima settimana le mangio. Ah, capito. Da molto lontano sei andato. Pian de Sorres. Ah, guardate, adesso buono già. E te tu, sì. Ma in campagna dove c'è tuo... Cioè, dove c'è la campagna lì? Ho capito. In campagna? C'è la tua in spiaggia. Già, no, ti stavo dicendo, in campagna dove c'è la campagna voi. No, lei c'è carica. No, Pian de Sorres. Posso Sorres. Lo siete mai sentito che c'è Pian de Sorres? Ho capito, non c'è più. L'ho sempre sentito che c'è Pian de Sorres, che cazzo è? Sì, dice nello tra bancale, la zona lì. E beh, non mi viene il gioco. Sì, ma c'è con l'unicità, beh. No, se guarda, se... anni fa, quando non c'era niente, dovevi venire in vicino della Trigozzi, era pieno di gioca. Ma prima? Molti anni fa. Una volta l'avevamo fatto, Sì. Vabbè, non lo so, se volta se ne è fatto un bel. Sempre lì? Sì. Cappa. È buona, dai. Cavolo, sei buona. A me non è che mi piace assai, no? No. E come mai? Non sono molto amante della gioca. Dico quei ripieni mi piace. E io li ho mangiati, luci. E andai a bigliare, che tutto è dura. Sì, mio suocero. Ah, è dura. E comprati. Chiappa, aspetta che cambio apparecchio. Facendo questo abbasso un po' di potenza, no. Fagli scaldare. Lascio questo, lascio. Ah, io c'ho questo qua e l'altro, vabbè, ma l'altro ormai lo mando in pensione. E c'è qualche due che vuole un bagno, ve lo vendo. Tu dentro io non ne vuoi. Questo l'ho pagato 220, spedito. Ma non era così, l'ha tutto quanto pulito e fatto. Capita, tutto quello pulito e... è perfetto. Poi è anche difettoso, ma l'ha sistemato Fabrizio, non ha creato problemi. Ma cosa ha spedito? Scusa, se l'hai non visto apparecchio. No, quell'apparecchio era di Leone Ballone Rosso. Mi ha venuto Massimiliano. Ma quell'apparecchio però era Romeo quella. Lo so che era il tuo. Anche quello che c'è Daniele era il tuo. Lo so. Sono usaccio. Lui ragazzi, in casa giù buttava lo coso. C'era qualche debettuccio, però poi ha peggiorato. Ah, è questo qua? No, Guido. È il iPhone? Sì, ha peggiorato, no? C'è perfetto. Ho sentito che è perfetto, ma devo qua brutto. Ma non è così. Già lo so. A Barone Rosso non è che ci si fa di modificare baracchini. Ehi, posso scendere, guarda, 180, di meno non lo do. 180 lo do, ma di meno no. Cappa. Ma che non faccio di nasce, non me l'avevo abbigliato io. Fa un po' di bordello. Non gli sa fare, mi. E poi c'ho questo qua in batte regolabili, no, già pompa, sì, cazzo di pompa. Ma me lo stai dicendo? Non so, Guglia. Io faccio una cosa, se attacco un po' guai. Io penso che in Chivino non vi riesci a modulare, se io sono un altro canale tu non vi riesci a modulare. Con 2009 tu con questo, sì. Con questo? Ma non è nessuno che comanda, no? Se io porto quel typhoon lì, lo attacco qua e attacco una cosa. Mi aggasino. Ah, beh, certo. Hai visto via che cambio? Quando mi arrabbiaggio. Via. C'è un casino che fate. Vabbè. Sento io, capito? Aspetta un attimino, ci metto viva la voce. Ah sì, Kappa. Sì, rimuovendemo. Kappa lui. 10 watt modulati, già va bene. E a voglia. Questo da poco. Prossimo 12 modulati, ma questa roba da focare, cioè sono pochissimi watt. Ma metto la passola che di watti. America, eccomi. Ehi, tre mosse la circuito, neanche il tre già. sbagliato. Buon aneddoto, sì, ci voleva, dai. Non troppo pesante, roba leggera. E niente. Adesso sigarettina e ci prepariamo il film di stanotte. Careccio, qualcuno stava chiamando. Avanti, chi è? Dalla Spagna, propagazione, tu. Avanti, compagno, a truffiaggi di un culo. Vabbè, dai. Ma che brutta, poi si sente già. Ma hai cambiato motocarro? Sì, sono con l'Intec. Già va bene lo stesso, dai. Si sente che è un apparecchio diverso. Vabbè. C'è un sacco di anni, c'ero, ma funziona come il primo giorno che l'ho comprato. Ho una piccola revisionata perché stava andando male. Ricordo le cose del... come si dice? Del microfono. Adesso va bene, andava bene. Sì, già si fa sentire, dai. Caro credo, via. C'era una belletta di più di 10 anni, ce l'ho. Sempre andente, a 3 maggiorecce. Ehi. Sì, sono di quelli vecchi a scuola, dai. Ma non mica tanto. Vabbè, rispetto a quelli di ultima generazione. Risultano un po' vintage, come si dice. Cappa, l'avevo preso a Milano da Tecnocomunicazione, fatto arrivare col Corriere, con l'SDI, all'epoca. Troia, sono anche ambulanza, ogni 5 minuti ne passa una, baccare dai. E già il Tecnoburuio, poco poco. Troia, allucinante, ti fanno venire l'ansia proprio. In chi vi bastano, tutti bastano. Tutti che si chiamano da lattidossi, da Isandona. Sì, ne passano parecchie. Troia, avanti tu. Sì, un attimino che mi rimetto la scheda del telefono mio, un attimo. Lì, che cosa, pronto soccorso non è assai lontano. Eia. Sì, vabbè, questo è un punto di passaggio, quindi molte passano qua davanti, qua sotto casa. Cro. C'è la croce rossa qua. E infatti quando partono passano sempre qua davanti. Una notte che si è sentita male la mia compagna. Sono venuti loro la Croce Rossa, bravi, veramente educati, cioè hanno lavorato bene. Meglio non averne bisogno, insomma, se non in casi eccezionali, dai. Sia miseri come ti si dice. Lo so, meglio non averne bisogno. Meglio di no, non è bello. Beh, Anto, io ti lascio adesso, mi spapparanzo sul letto, mi fumo una sigaretta, ma mai di un film, sì. American Gangster, roba fescia di quella serie. No, a tre buio ce l'ho giù. Ce l'ho. Qua no. Non è torna a vendieva. Non è giù buccio. No, tu al PC, Anto. No, me l'ho scaricato oggi. Ho scaricato oggi da internet, è un film del 2007, e niente, così almeno non c'è rottura di balle pubblicità di altri bucarini. Molto bene. Dai, ti saluto, ci sentiamo prossimamente, tanto dai, buona serata anche a te, salutami a Luca, l'ascolto, e a tutti gli ascoltatori del 10, dai. QRT esecutivo a parte mia, buona serata e buon proseguimento, ciao. E capo, dai, già ci sentiamo. Ciao. Ciao Gianni, alla prossima. Ciao a tutti di nuovo. Ciao. Cazzo, d'ora bandiera vai a loro. Ma sei un E56. E già fatto in terra. Vento, un E5 stazionario sei. No, adesso no. Uno e due. Aspetta. che è buono, dai. Non si tratta di birra un pezzo, no, guai. Tu già andata a fare un'altra visita dal dentista. Da lunedì, da giovedì, il 20 inizia le cure. Mamma mia. Tu quanto devo mettere i perni, Anto? Devo fare una specie di operazione, no? Non ti basta più. Fatto, boh. Lo so, troppo così. Adesso vuole finire un bel di Napoli. Perché non lo so. Kappa. Vabbè. Prima la saluti, la bui, si ne avanza, si va di astro. Adesso non niente. Lo so, ma che si cazzo guagna, mutoni di acqua, d'agna, le bancare, dai. Tu quanto quanto la vuoi facendo questa quota no? 7.000 euro. Cazzo. Attualmente purtroppo bisogna curarli, se non li curi poi te la bigli, come è successo a me. Si ladra in sciocca, 7.000 euro ma curate di te, ma va. Ma me li sto anche mettendo, non sono curando, capito? Cari un bello. Sono un benedetto. Un bel cari. E dai, cosa sto facendo? Non dirà lui, non so. Oh, sei dentistico, Andrew. Sei dentistico, eh? Ma cavolo. Lì, vicino, via Carlo Felice, là. Forse ho capito. Un botto, eh. Vabbè. Tu ci vai così, anche via a posto, se no non l'aveva dato così, no. Prima la salute, poi è restata le cose, e poi se non mi basta non mi prendo tutto, come l'ho già detto. Ma sì, mi sa che non bastano neanche. E vabbè, dai, piano piano. Ecco già. Vedi un po'. Ecco per i soldi. Lo so. Ma però sono. Usurai sono. Questi sono quelli, tanto non sono usurai, sì, ci guadagnano, che guadagnano un pacco di soldi, però dopo anche io ho un altro problema per quanto riguarda l'osso, capito, se mancanza d'osso lì è un casino, non puoi mettere i piedi. Lo so, soldi ci vogliono. Sono fa sacrifici, piano piano, lo fa. Sì, qualcosa già la stai facendo, quindi arrotica un po' che dà e via, si tira avanti. Comunque, se c'è bisogno, lo dici e ti porto io, è bravo, Però più là possibile. Bravo, sulle autorazioni, a tutto, bravo, grazie, poi ha 40 anni di esperienza. Spero, anche se qualche dente ce l'ho rotto, ma non mi interessa, rimango così. Da un dente rotto si parte. Si dà via in culo, quando ne avrò soldi me lo faccio. Ma se inizi piano piano, oggi ne fai uno, poi ne fai l'altro, te li fai. Così lo vedo, zittata, ma se non mai avevi preso una cazzata, poi avevi preso, insomma, mille, 2000, e poi 2000, avanza. E non basta nemmeno qui, si rinnova. Lo so. Abbia il culo. Vediamo poi di bussi, pure di bussi, ma non le bussi, no. Cambia come te, giù gaccio, allora a me andiamo nel buono. Non è chissù, no, ma non è che siamo a figa a mari, Vabbè, allora mangia brodino di fave. Tu rinascia una zecca. Guarda, vuoi fare. Puglia, mia mamma gioca a metà di una cosa, una pura a bocco, e due la bicicletta carregata, che oggi l'ho usata. Non ho capito altro. Devo mettere la bicicletta a caricare, l'ho usata l'altro giorno, l'ho usata anche oggi ci vuole la carica. Devo cambiare anche le batterie di dietro, che il faretto un po'. State usando, sì. Sono contratto in DC, ma oggi non ha giubilato, sono caffè da bambini. Mamma mia, ragazzi. Che A me mi piace camminare a piedi. Beh, male non fa, sì, ma piano piano, sono salito da qua e nel deposito. E vabbè, questo mi dà, che cazzo l'ha fatta lì? Ci credo. Ma ce l'hai tutti che toccano? Cosa? TikTok non ce l'hai? No, guarda così, ma non c'è gomma, ma cos'hai che c'è TikTok? Vedi dei video, video dirette, vedi belle signorine anche. Vabbè, cocco l'hai scritto io quando sei nato. Guarda che c'è un commento. Ah, non parli, non parli. Qua è entrato. È un po' comane quel Luca, anche se la forma del adesso telefona Maria, hai capito? Bello bene, glielo dico. Non parli, puoi parlare con Mulo. Ah. Adesso ti faccio schiattare, un po' comane. Adesso attacco il lineare e ti faccio schiattare. Vabbè, fatta lì. Ciao Antonio, te lo immagini che mi dice sempre cosa questo Luca? Faccio scillocci di fora. Sì, ma io lo faccio schiattando. Ci metto molto a telefonare a Marina, così lo picchia. Certo che si è guardato ancora che sul personaggio, no, che me l'ha rivisto un voce. Assai lontano, dai nocche. Ecco comane, di coso. Ciò ti sta un mascio di te. Cuore, scusami, è normale che non mi trovi. Fai poco tempo quanto ti ho visto la prima volta. E ne ha mille. Ah, Luciano, con le live. È femmina, ma è un mascio. Tu a mille, poi inizi a fare le live. Senti. Ma è poco tempo, insomma. Perché poco tempo? Più di un mese. Papi. Questo magari io qua, chissà, che non ha i suoi lineari. E chi si va al manganello in mezzo all'acqua? A Torino! Mio madre che si attacca a Gisù. Ma pensavo di aver perso il portafoglio oggi. Mamma mia, ma disperato, Non riusciva a trovarlo, non riusciva a trovarlo da nessuna parte. Cazzo, e poi dov'era? Ma poi stai sapendo ancora, chi è Novi? Ah, è Novi, attaccato. Disperato Antò, cazzo, io mi conta a poco, fa la patente nuova, larga la posta P, e guido, ma poi c'erano 150 euro dentro. Disperato. E poi dov'era? Era qua sul comodino, praticamente io mi sono preso un rotto di cartellino che papà fammi un asso, no, sennò fa chi quattro le mi venivo ne a camion. Preferisco un rotto di cartellino che ce n'è di più e ti dà di più. Cosa ho fatto? Quando mi sono sfogliato, non me lo sono ricordato, prima di sfogliarmi anzi, il portafoglio sopra il comodino. E poi così, per caso, ho preso un rotolo della carta igienica, l'ho preso e così non ce l'ho manco visto, ce l'ho messo sopra il portafoglio, me lo copriva proprio completamente. Non sapevo cosa fare, sono andato a giocare, ero disperato, non sapevo di cui di Lugabo, mamma mia, poi ti stavano in questa a fare la denuncia. E poi niente, ho ricontrato le cassette, ho trovato l'altra scrivania, nulla. Poi mi avvicino qua, titulava, gaglia di mamma, due, in chi bisotto vedi. Va, ti lascio immaginare. L'assusto che ne hai pigliato. Non lo so. Hai detto a me pongo i pantaloni, no, che manca da Ruzzi. Non si sa mai. Se lo manganello non gli dato. No, grazie. Ma cazzo metto il ratone nel contatore, cazzo, ma sono satanotte. Scusa, se vai le macchinate sono tutti vari. No, mi è mancata la luce quando stai parlando tu. Ah. Si sta gira. Io tu da torre la luce, parlo io su cazzo di cudo una sussa. Ho capito. Ma giocavi? Grazie a tutto me, non tocca a nulla a me. Che intacca. Sicuramente per un buglione, no, che vai sul video. Come va? Ma papà, si è mancata così, e qui ci sta Polassi che... Sì, c'è Polassi che c'è un sbatto di tensione, anche i nocchi. Ma sono temporali, si è sudato tutto. Sì, magari che lo sia attaccando al puntatore 2 invece. No, sarebbe rimasto di più. Ghiaccio sempre a bai denti io. Accendo un attimino giù in bagno, ah. Ma sto facendo addosso. Corri! E lui, ci sei? Venga, aspetta un attimino, due secondi, Scappa. Tanto vado a fare appunto la mano. Se la vuole la porta. Scappa, dai, allora ci sentiamo domani che io mi addormento. Sono stanco. Ciao, buonanotte, noi ce la risentiamo, ciao. Ciao, buonanotte, anche a te, ciao. Ciao a tutti gli ascoltoni.